Arriva il pericolo russo. Sabato 20 novembre dalle 22 al Folletto 25603 a Via del Grasso Milano, from San Pietroburgo, Billy's Band. Quando passo, voglio chitarre e fisarmonica, mi trova il band dei momenti russi. In diretta su Radio Active, il concerto, radioactive.no/t.org. Не сегодня делать вовсе нечего. Вот иду и просто отдыхаю я.